Ora, sotto un cielo di stelle non ho mai visto tante luci in un solo punto. Sto mentendo, appunto, è impossibile scordare tutto. Quelle labbra che mi sfiorano, le mani che mi toccano, il cuore che mi vibra come un telefono in silenzioso come te. Quando restavi steso zitto nel nostro letto, bocca chiusa, iPhone sul petto. Quanto ho sofferto, chiudevo gli occhi e poi sognavo un'altra vita, un'altra casa, un'altra meta, ma la stessa metà con cui dividere 2 metri quadri, ma in un'altra città. Via da qua, scappavo da una vita per me non concepita, troppo giovane per rassegnarmi, ma innamorata di te che odiavi i tacchi ed io che li compravo. Amavi i miei capelli lunghi ed io me li tagliavo, e non capivo il motivo per cui non sei scappato quando urlavo e soffrivo. Io che mi nutrivo di un altro pasto negativo, ho scoperto poi il sapore di un giorno più vivo. E mi dicevi sei stupenda quando ero orrenda, tipo appena sveglia che anche lo specchio si spaventa. Senza quella mia matita nera che mettevo anche la sera, senza veli sopra il letto, pronta a amarti per la notte intera. Non bastano le parole per parlare di te, per parlare di noi. Non servono promesse che tu ci sarai, che io ci sarò. Stanotte voglio te fino all'alba, acqua calda, i tuoi occhi, poi le tue labbra. Sentirti mia fra le onde e la sabbia, godermi ogni intimo attimo con calma. Guarda come tutto cambia intorno, il giorno diventa sera andata e ritorno. Se mi volto indietro vedo un bimbo solo, con le mani sporche di colore sul foglio. Negli occhi un mondo, nel cuore un sogno, nell'anima un fuoco, un segno profondo. Ma ora sei con me e di te ho bisogno, mi sento così bene quando ti ho attorno. Sotto le coperte o sopra un tetto spoglio, sfoglio le pagine del nostro racconto. Solo se perdiamo ci rendiamo conto del vero valore che aveva per noi quel volto. No, non bastano le parole per parlare di te, per parlare di noi. No, non servono promesse che tu ci sarai, che io ci sarò. Di nuovo.